chiaro il vocale. Ok, vabbè. L'altro era un Turner, questo è un MB4. E questo mi sembra, non so quale dei due sia il migliore, ma a me, a orecchio, mi sembra che questo è molto più chiaro. Cappa, cosa vuoi che ti dica, Carlo? Dovrebbe essere meglio l'altro. Perché questo è un microfono da 13. Vabbè, là. Va bene così. Ti saluto allora, se devi salire, e ci sentiamo alle prossime, dai. Ehi, Anatali, adesso salgo, poi nel caso ci sentiamo più tardi, già accendo la radio su a casa, e se non devo riuscire ci sentiremo sicuramente più tardi. Ciao, buon tutto. Buon proseguimento anche a te, ciao Carlo. Chi è avanti? Avanti l'amico della portante. Hola, c'è qualcuno su 10? Hola. Ciao ragazzi, sento 10? Hola, c'è qualcuno su 10? Hola, sentono 10? Hola. Hola. Ora attenzione 10. Prova, SCQ canale 9, canale 10. Il numero ti sei sbagliato, cioè, no? E dopo è quel Rick, stavo facendo roba, mi ha detto c'è vero. E vabbè, tutto il giorno vedo i numeri, non è che uno a meno, ma lo posso anche permettere. Stavo aspettando proprio a te perché ho ritirato con la chiavetta famosa, chiamiamola chiavetta, è identica alla tua, proprio uguale, ci ho messo un segno per riconoscerla perché sono identiche, solo che quando la accendi la tua diventa verde e questa diventa celeste. E la cosa più importante, il risultato è sempre un mattese. Il risultato è sempre uguale. Io sono andato a prenderla da Claudio Muros, attaccata al computer suo, perfettamente funzionante, ti posso dire anche l'HF funzionava bene. Veramente sono rimasto a bocca aperta, infatti abbiamo provato con la sua che ne manco c'è, muta era la sua confronto a questa. Attacco qua, vero assoluto. Te l'ho detto, è un problema, o le mancano i cusini, ma no, l'abbiamo installato perché ce l'ha chiesto anche il programma. È una questione di compatibilità, ci manca qualcosa ma lui non ce lo dice, nonostante noi abbiamo fatto il possibile e l'impossibile. È una cosa che veramente mi rimane un po' sullo stomaco, perché anche da me, anche il portatile più disgraziato che c'è qua, te lo metti e subito sono in ghiotte, questo no. Ah, poi di questo computer c'è l'uscita per le cuffie diretta, diciamo quella sua nella scheda, non si sente. Per sentire le cuffie ho dovuto mettere con la scheda esterna. Anche. Sì. Di lì c'è più di un problema. Aspetta, io non, adesso non me lo ricordo, è abbastanza moderno, però voglio guardare una cosa, c'è un computer qua vicino, quanto due pacchetti di sigarette, voglio vedere cos'è, perché l'ho usato, però non c'è scritto, del G-Volt 1,5 A, ha avuto purtroppo dei problemi di drive, però è un Windows 10 Pro dovrebbe essere, se non ricordo male. Sicuramente la chiavetta funziona. Dimmi una cosa, poi tra l'altro ho fatto mezza confusione, avevo tolto tutte le icone e ce ne sono rimaste alcune fuori. Se c'hai tempo, magari ci sforziamo, ci andiamo al tuo canale e mi rimetti con le icone dove c'è quel programma, TeamViewer, eccetera, eccetera, che sono rimaste all'interno dei documenti. Che piccole ci sono finite, la sugricetta, le zampette, insomma da camminare. Ah, ho capito cosa è successo, cosa ho toccato, perché c'era un affare, sì o no, mi sono scomparso tutte quante le icone di tutto quello che mi ha installato. E rimane la pagina, quella l'ultima settimana, gli ultimi 3 giorni, e lì ho notato ci sono rimaste delle cose. Tra l'altro il simbolo di Google, per entrare su Google, c'è sotto nella barra, vabbè c'è quello lì, però poi nelle icone che ti metti non c'è, c'è un altro disegno, c'è scritto Google, però non c'è quello colorato giallo, rosso, blu, cos'è. Dai, andiamoci un po' tranquillo, perché così installo qualche altra cosa, anche se a questo punto, se non ne va bene uno, la base che non ne fa già, che anche altre installazioni siano inutili. Dai, passa su un altro canale, magari un po' più riservato di questi. Ecco, sì, ciao Fabio, un attimino. Avanti Fabio. Ciao Gianfranco, ciao Roberto. Sto uscendo adesso questo apparecchio, sì. A Puglia, 9.60, sì. Va bene. No, ieri non stavo uscendo, mi immaginato. C'era scollegato qualcosa dentro, non stava arrivando dalla scheda ecco al doppio modulatore, non stava arrivando il segnale. Perché c'era un... alla fine seguendo con l'oscilloscopio c'era un potenziometro in uscita che per regolarlo io l'ho piegato col dito ed era faceva contatto e non faceva contatto. No, adesso è perfettamente funzionante, vai già Fabri. Ciao Fabri, me l'ha ascoltato. Cose che capitano, e a me invece è capitato che mi sono trascinato un po' di televisori fuori per sintonizzare una banale parabola che causa il tempo brutto, me l'ha inclinata, il motore ha fatto le bit e quindi è successo di tutto e di più. Ma lo sai che non ci sono riuscito. Presa a mano, scollegata, messa in diretta, controllati i cavi, è una cosa da fantascienza, guarda, mi è capitato con tante parabole che ho installato al primo colpo, chissà che malanno le è capitato, l'ho dovuto prendere anche nuovo tutta la parabola, ma che basta o niente, che un bagno di sangue, praticamente sono da stamattina alle 7, poco fa, pochi minuti fa, anche ho finito di riparare anche l'impianto di videosorveglianza e il citofonico che erano stati danneggiati da quella tempesta di qualche settimana fa. Non si finisce mai Fabri. E a me lo dici, che sono sempre qua con questa roba a battagliare. Va bene, comunque mi si a posto, dai. Quando è così volte volte lo devi mollare e riprendere l'indomani. È probabile, ma già diano mai tempo a pagamento, perché io sono testardo e voglio capire cosa è. Tra l'altro ho utilizzato anche gli NB nuovi, quindi nuovi, ci ho rimesso i vecchi, eccetera. Secondo me è dovuto a un problema molto semplice, anzi banale, che i nuovi televisori tardano moltissimo a darti il segnale, rendendo impossibile quasi la regolazione fine, perché di lì si opera a livello di millimetri. E quindi è questo che è successo probabilmente. Però ho già provveduto anche su quello, mi dovrebbe arrivare un analizzatore particolare che serve a fare questi lavori, ma soprattutto serve anche a controllare la videosorveglianza, che ogni tanto c'è qualche problema, perché con quell'acqua che fa ho trovato arriva due pozzetti totalmente allagati, pieni d'acqua, una cosa impossibile. E anche se non pioveva la stessa cosa, perché su questi tubi, così come nel tubo dell'antenna, si forma un'umidità, non una condensa, anzi, dentro la macchina lo stesso. Ogni mattina, anche stamattina, il condizionatore a manetta per eliminare la condensa interna. Perché qua c'è uno sbalzo termico da paura, veramente, è una cosa micidiale. Lo so, quando ho lo stesso problema io ce l'avevo a Sant'Orsola, quando abitavo lì a Sant'Orsola, non ho mai riuscito a tenere la macchina pulita in garage, oppure era sempre sporca, la notte c'era uno sbalzo termico. perché è impressionante, ma proprio è un fosso, lo fa. Va bene, io rilancio a Roberto e rimango in ascolto, che fra un po' devo fare una cosa, cioè riprendi Roberto. Ok, una domanda da Franco, ma lo stai tenendo fisso su un satellite basta o ti devi muovere? No, guarda, io ne ho piazzato, facciamo una premessa, io queste antenne ne ho piazzato parabole a Gogo, quindi da anni, da quelle analogiche addirittura. Ho anche fatto con le schede puntini da programmare. E questa è veramente la prima volta che mi capita una cosa del genere. Tra l'altro tieni presente che era l'antenna col motore che ho piazzato sempre io. Quindi è un paradosso. Secondo me la spiegazione è che i televisori non sono come decoder, ecco, tardano molto a dare il corrispettivo del segnale. Perché si basano probabilmente sul fatto che tutti fanno lo strumento e si trovano con quello e non sulla televisione. Ma comunque, adesso aspettiamo che arrivi il giocattolo, poi già gli metto il pagamento a tutti i satelliti, tra l'altro se si impara, anzi se non fanno la prova mi butto pure giù. No, ma la domanda mia è una soltanto, se ti serve, allora, io strumenti ne ho più di uno, per fare un altro, quello grosso, quello della Unamo professionale, sono tutti e due professionali, il Promax e l'Unamo, però è ancora meglio l'Unamo, quello lì lo sta sistemando la ditta, che c'era un problema sull'alimentazione, c'è una scheda, stava aspettando un componente, eccetera, eccetera. Se tu devi sintonizzarti su un satellite soltanto, ti posso dare uno strumentino semplice, oppure un altro un pochettino più voluto che di quelli portatili, quelli tipo un po' più grande di una calcolatrice, da il doppio di un cellulare, che c'è anche il monitor, infatti molte volte quando mi guardavo le partite mi collegavo di lì per non perdere tempo, e c'è un piccolo display ad HD a 7 pollici, insomma che sia, e c'ha tutto, c'ha il misuratore di campo, però non ha il misuratore, l'analizzatore di spettro. Sì, anche questo che è di ultima generazione, che sto prendendo io, c'ho la stessa cosa. Ma in più, ripeto, c'è una funzione che per me è preziosa, dato che devo gestire 18 telecamere. C'è la possibilità sia di decodificare il codec 265, che è quello della videosorveglianza, e sia di gestire i vari tipi di telecamere, che per me è anche più importante del satellite, capito? E poi fa anche il satellite, c'ha un piccolo monitor, da lì vedi i propri canali così come sono. Anzi, ce li ha già programmati, quindi tu non devi fare altro di mettere il satellite e di puntare la parabola, ti dà tutti i parametri, le misure, la distanza, la sensibilità, poi i fattori di qualità, insomma c'è tutto, dai. E va bene così almeno si impara. Però ripeto, mi è più utile per la videosorveglianza, che essendo i cavi in acqua praticamente succede tutto di più. Sì, no, ma la domanda mia è stata, se volevi fare una cosa veloce per un puntamento semplice, c'è anche uno di quei giocattolini, come si chiama, con i display a LED, ti dà il segnale, cioè ti sposti appena, regoli il guadagno, ti dà immediato, cercate il satellite. Se invece senza sapere, cioè non ti dà nessun'altra informazione, quelli altri che ho, l'ultimo che ho comprato, basta che imposti il satellite, ti dà tutte le frequenze, poi c'ha blind scan che te le ricerca in automatico, c'ha il computerino, ti dà tutti i parametri, una velocità allucinante di ricerca, c'ha quello lì, migliore dell'EchoStar che ho, di quello, diciamo, del ricevitore col posizionatore incorporato, è molto molto efficace. Poi se vuoi qualcosa con altre informazioni, c'è quell'altro della Unamo, però quello lì è ancora in riparazione, quello ti dà tutto, qualunque tipo di informazioni possibile e immaginabile, anche la cosa, il cavo su interrotto ti dice. No, non c'è bisogno, ho detto che mi sta arrivando quello professionale. E guarda, in questo periodo tra poco mi arriva la lettera direttamente di come si chiama, quello di Amazon, il proprietario, quello che fa nello spazio, per i ringraziamenti. L'altra settimana motoseca nuova, l'altra settimana ancora non mi ricordo cosa ho preso, prendo anche connettori elettrici, c'ho una scatola di integrati, sempre da Amazon, siccome ho Prime, quindi non pago la spedizione, mi conviene, e così via, insomma, una mezza... vabbè, allora che facciamo? Andiamo 26185. Sì, qua su, a tre passi. Dove vuoi andare? Dimmelo tu. Ah, 26185 ad esempio. No, ma sei fuori dai 40. Tu cosa hai detto? 27185? Ho detto 26. Ah, va bene, anche un canale sotto me, non è che dobbiamo... Oh, che dolori! Sono tutto rotto, sono due giorni inchinato e non sento più la schiena. Quindi qui su dai, è troppo in basso lì. Dimmelo tu dai, non c'è problema. No, facciamo due canali sotto l'uno. E dimmi la frequenza, non lo so io quali sono i canali. No, io quando ti porto perdo. 945. Ok, 945, ci andiamo. Scusa Fabio, dobbiamo provare un computer, sto cercando di installare delle cose. Fabrizio sta saldando. C'è qualcuno su canale 10? Come usciva, guarda, così è perfetta, quindi sto uscendo bene. Volevo vedere perché sono andato a provare, devo provare un amplificatore che non stava funzionando, quindi questo è diventato un lavoro qua dentro. Sì, 9.38 per farti capire un po' la tua missione. E fra un po' mi probabilmente attenua, fra un po' devo attenuare io? Forse sì, adesso sto provando se funziona. Vediamo se c'è qualcuno, se illumino l'albero di Natale. Va bene, va bene. Beh, tutto a posto, sì. Diciamo di sì, diciamo di sì. Domani sono in partenza a Samuveo. E niente, partita grandiosa. Allora dobbiamo partire. Va bene, allora, dai. Bocca al lupo. Sì, allora spacca, tanto a me. Quello che conta è dopo che finiscono, che andiamo al ristorante, ci mangiamo una cosa e poi rientriamo. Sì, quello va bene. Guarda, all'11, vabbè, poi ci sentiamo. Allora, vediamo un attimino. Qui sono... non mi ricordo mai niente. Si vede che non lo uso mai io questo amplificatore. Fai male. No, non mi serve. Va bene così, con l'antenna. sì. Allora, aspetta, quindi questo fa così, adesso lo mettiamo a scaldare, lo voglio provare, io sono da parecchio che non lo uso. E con la radio lo stai facendo andare? No, sempre col 5000, è l'amplificatore delle HF. Guarda, se stai lontano, la radio migliora molto, è più chiara. Non ti avvicinare al mic perché rimane un po' compressa. E adesso sarà 40 cm più o meno. Va bene. Adesso dopo 5 minuti ci vuole accallare quella cosa e poi vediamo cosa succede. Lo voglio provare un attimino. Adesso sei 9.38 con picchi positivi a 9.38, non arrivi, cioè non sei con i picchi positivi, arrivi a 9.38. Sì, adesso vediamo. Sono le terapie da eco nel 5.000 con il Roger Beep. Sì, sì, e 120 canali. Oh yeah, oh yeah. Aspetta che un po'. Sono stanco, sono stanco, oggi ho finito quella travolta, mi ho portato su a Sassari. Io ho portato tutto il motore, ho portato giù il picco. È perfetto, come la commissione dalla fabbrica, già l'ho vista, solo che c'è un problemino ai massimi regimi, devo mettere a posto. E poi le conserviamo tutte. Ho capito, ho capito. No, io sono un po' mezzo demoralizzato, perché non ho un router a impostare le frequenze sul blu in ascolto, praticamente non sento. Ma l'antenna? No, non per l'antenna, per la radio. Infatti, vabbè, lunedì ho un appuntamento lunedì sera con Marco, devo avere un lavoro e poi non provo sull'antenna sua, perché non ho... Mi stava spiegando all'incirca, forse può essere anche un temporale che ha compromesso dei componenti all'interno, non lo so. E lì bisogna provare solamente il generatore, qui lo devo mettere sotto e vedere quando inizia a morire, è l'unica, le altre tutte cose fisiche sono. Vediamo, no, proviamo a casa sua, poi ti aggiorno, vediamo un pochino. Prova. Allora, quindi qui portiamo a basso basso, perché allora qua si vede che non uso mai questo mixing RF power 10 watt. Ok, stava gracchiando, stai facendo una cosa vicino al mic per caso? Sì, aspetta, ho abbassato un po' la potenza. Si vede, adesso sei quasi 9.30. Cazzo, mi sta andando forte qua, sta arrivando forte, mi sta entrando anche dentro i cosi dei profumi. Non ti capisco, cosa hai detto? Però hai il rumore di sottofondo, poi è un piccolo innesco che ti rovina la modulazione. Ho capito che gli accendi le luci, però non era chiarissimo. Adesso lascia così perché hai 9.40 fisso e 9.50 52 mollati. ti sento un po' fischiato, boh, o non sbaglio ti. Vabbè, adesso si sente bene, magari quella calata io con questo lo ascolto bene. Infatti, e tu magari con altri normali vai un po' in, a sporcare la modulazione, quindi non si capisce, Fabrizio. Ma io ti capisco benissimo, è Luca. Ehi Atti, che mi sto vestendo, che troppo usciamo. Fai un passaggio a Fabri. Ehi, un po' così la radio, non è che sia bella bella. Ti ascolto, non bene però, Magari così va meglio la radio, ovviamente, però era, no, sto facendo delle prove. Adesso va bene, esatto. No, così no. Allora, come segnale sì, sul 3 del più 30. E via abbastanza forte, cavolo. È un segnalone. Oh, c'è freddo, è relax. Vai, vai, nel caso già, se non devo uscire a prendere la gabbia, sono qua io, va. Hai capito, ti me ne esco un po', fai odore, là. Vado questo localetto carino. È un circolo, però non è un circolo, perché è bello, grande, molto spazioso. C'è il tributo di Imari, Diana Street. Bene, bene. Va bene, buon divertimento, va. No, io stanotte non faccio neanche delle piccole perché devo andare a San Mugheo domani, quindi devo viaggiare. Devo già coricare presto e insomma, ci devo fare presto per andare la notte della sera, quindi. Purtroppo hanno scelto un orario un po' così e quindi mi devo riposare un pochino. Noi a mezzanotte, massimo mezzanotte e mezzo siamo a casa. Tu poi domani. Domani relax. Bene, va benissimo. Beh. Cosa ti? Allora, va bene, va benissimo. Ok, preparatevi, buona serata con tutto. Io non ho parlato qua, poi dovrò uscire a prendere la mia figlia che ha dato un disco e quindi più tardi lo prendo. Ah, discoteca? E allora, di Milano. Ho capito. Via. L'età sua adesso, quindi. Lo sai cosa è, ti? Ho capito che è l'età sua, ma con la gente di merda che c'è in giro, per carità. No, vabbè, ma lì, da quanto ha detto lui, ha trovato quasi tutti i suoi amici che giocano a calcio, quindi siccome devono giocare a calcio, domani devono rientrare tutti alla stessa ora. Diciamo che è per una discoteca per i minorenni, capito? È una di quelle che quando andavamo noi, tempo, che c'era di tutto e di più. Yeah. Brecco, brecco.